le ali, le ci fanno volare rapidi sopra lapidi, animali feroci, ma siamo fragili, siamo veloci, volano le voci sugli ultimi fuochi, parabole ellittiche sulle vittime, numeri e nuove dottrine, il mistero biblico del mondo ciclico, in fondo all'orizzonte c'è un nuovo imbilico che si confonde con ciò che è di fronte. Le parole aiutano l'anima a trovare la porta chiusa da dietro cui chiama la musica, che ci salverebbe se l'ascoltassimo, se le lasciassimo soltanto un attimo. La fiducia che riponiamo nei nostri dei, potremmo ascoltare il Dio che è lei e fare festa anziché tagliare un'altra testa, per poi trovarsi a piangere su quello che resta.